Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. Ciao Simona. Ciao Federico, buonasera a tutti e tutte. Dobbiamo fare un'altra puntata di Mebius, sei psicologicamente preparata? Assolutamente, tu? Io sì, via, i titoli. Sono passati 75 anni dalla formulazione di tre famose leggi, rimanete con noi così scoprirete quali. La biblioteca di Leonardo da Vinci, erano un centinaio di libri, dove diavolo è finita? E poi, piccole aziende in ascolto, fate attenzione perché c'è una proposta molto interessante per voi. Aprite le orecchie, via! Un robot non può recar danno a un essere umano, né può permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla prima legge. Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la prima e con la seconda legge. Sono queste le tre leggi di cui parlavamo prima, le famose leggi della robotica formulate da Asimov nel 1942, quindi insomma hanno 75 anni e ci siamo chiesti se siano effettivamente ancora valide, ancora adeguate per regolamentare, diciamo così, il rapporto tra umani e robot. L'abbiamo chiesto allora a Giulio Sandini, direttore del Dipartimento di Robotica, Scienze Cognitive del Cervello dell'Istituto Italiano di Tecnologia, quando l'abbiamo incontrato al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano proprio in occasione delle Olimpiadi di Robotica. Era il 1942 quando Asimov ha pubblicato il racconto ambientato sul pianeta Mercurio, mi riferisco a Circolo Vizioso, in cui vediamo in azione un robot che ha praticamente impresse nel suo cervello positronico le tre regole che passeranno alla storia come le leggi della robotica. Professor Sandini, ecco, da allora i robot però hanno lasciato i libri di fantascienza, adesso abitano la nostra quotidianità, sono in fabbrica che assemblano automobili, vanno nello spazio a esplorare pianeti, ci aiutano in casa nelle faccende domestiche e li troviamo anche in sala operatoria dove facilitano e migliorano il lavoro dei chirurghi. Come la mettiamo dunque con le leggi della robotica? Sono ancora adeguate quando ci troviamo ad affrontare e a riflettere sulla coabitazione tra umani e robot? Beh, direi certamente di sì, anche perché tutto sommato sono ancora un obiettivo non raggiunto né nell'ambito della robotica né nell'ambito dell'intelligenza artificiale, ma perché sostanzialmente Asimov, oltre ad essere un eccellente scrittore di fantascienza, era anche uno scienziato, quindi aveva condensato in queste tre leggi, soprattutto nella prima, no, l'essenza dell'intelligenza umana, vale a dire la capacità di prevedere l'effetto delle nostre azioni e delle azioni degli altri, che sono ancora, nonostante tutti i progressi della robotica che lei citava, sono ancora degli obiettivi da raggiungere, ecco, non sono ancora così realizzati nei dispositivi che abbiamo al giorno d'oggi. Però in quella direzione stiamo andando, parlando di robotica e di intelligenza artificiale, macchine cioè capaci di comunicare fra loro, di imparare e di correggersi usando i dati che via via raccolgono e analizzano. Sì, certamente grossissimi passi avanti sono stati fatti, grossissimi passi avanti soprattutto direi per quello che riguarda gli aspetti che noi chiamiamo di controllo sensomotorio, vale a dire di come riusciamo attraverso dei sensori che sono installati nei robot a far sì che il robot stesso sia in grado di modificare i suoi movimenti e il suo comportamento, sempre però finora almeno rimanendo soprattutto ad un livello, come dicevo, sensomotorio, quindi di azione riflessa, no? Come quella che possiamo trovare anche in organismi relativamente semplici come gli insetti. Senta, tra apocalittici e integrati, lei come si pone, cioè come risponde a chi dice i robot ci ruberanno posti di lavoro? Perché insomma c'è chi paventa una società della piena disoccupazione, chi invece tutto sommato sottolinea come l'innovazione tecnologica inevitabilmente distrugge dei lavori ma ne crea di nuovi. Io non appartengo alla categoria dei catastrofisti, ecco, anche perché fino ad ora abbiamo esempi di robot tra i quali quelli che lei citava di utilizzo in ambito medico, in cui non solo non sono stati, diciamo, rimossi o eliminati dei posti di lavoro, ma ne sono stati creati parecchio ad hoc, no? Quindi proprio esattamente per gestire questi dispositivi. Lo stesso, diciamo, è prevedibile che succeda quando i robot diventeranno di uso più comune, più diffuso, no? Come per le automobili, no? Una volta c'erano forse più persone coinvolte nel trasportare le persone, ora con le automobili ognuno ha la sua propria automobile, ma si è creato un network di lavori dal meccanico al carrozziere al venditore, no? Che è pensabile possa essere trasposto ad un mondo nel quale i robot verranno così venduti tra di noi. Ecco. Da tenere presente anche che questo, diciamo, avvicinamento a questa società ibrida, come viene a volte definita, quindi composta sia da organismi naturali che da esseri artificiali, ecco, questo percorso di avvicinamento ci consentirà di adattarci a questa modifica della società. Quindi benissimo parlarne, benissimo discutere, ma direi senza timore, no? Anche perché del resto, insomma, se ci saranno dei robot, ci saranno delle persone che questi robot li progetta e li programma. Senta, Sandini, lei cosa ne pensa della tassazione dei robot, di una tassa sui robot? Mi sembra una soluzione un po' fantasiosa, ecco, diciamo, io non credo che quella sia la strada verso cui andare. La società sicuramente dovrà trovare dei meccanismi di bilanciamento fra l'attività, se vogliamo, autonoma e l'attività invece umana, no? Però mi sembra più logico pensare invece ad una società che, ragionando su questi problemi, riesce a trovare delle soluzioni equilibrate, quindi che lasciano spazio alla creatività e all'attività umana, ma che ci diano la possibilità di semplificarci un po' la vita, diciamo, no? in situazioni nelle quali adesso magari non ci troviamo a nostro agio. Ecco, prima di salutarla, Sandini, voglio farle ancora una domanda inerente una delle sfide ancora aperte nel campo della robotica, cioè quello di riuscire a sviluppare delle macchine in grado di replicare la nostra capacità di imparare, di correggerci, di emozionarsi addirittura, una sfida in cui è direttamente coinvolto all'Istituto Italiano di Tecnologia. A che punto siamo, a che punto siete? Stiamo andando avanti, come diciamo in molti posti, in molti altri centri di ricerca nel mondo. È un problema quello dell'apprendimento che diciamo apparentemente sembra di facile soluzione, no? Ma poi quando deve essere affrontato in un ambito non specifico, no? Quindi quando non si deve imparare una singola cosa, no? Ma quando si deve imparare a comportarsi in maniera adattativa, no? Ad adattarsi all'ambiente, a interagire con persone o con dispositivi diversi da noi, no? Ecco, quando si cerca di generalizzare, come si dice in termine tecnico, no? Questa capacità di apprendimento, è lì dove nascono le difficoltà, no? Per cui ci sono sicuramente dei grossissimi avanzamenti tecnologici nell'ambito dell'intelligenza artificiale per quello che riguarda il riconoscimento di volti, il riconoscimento di impronte digitali, eccetera. Quindi siamo ad un livello nel quale siamo in grado di creare esperti molto specifici su particolari problemi, no? La cosa che ancora ci sfugge è come facciamo noi, no? Come fa il nostro cervello invece a coordinare, no? Questa orchestra di esperti in maniera da riuscire ad adattarci agli ambienti, diciamo, alle situazioni nelle quali ci troviamo, ed è un po' quello la frontiera adesso, no? Studiare come facciamo noi esseri umani, o come possono fare i robot, no? A interagire in modo naturale tra di loro. E allora, Sandini, in bocca al lupo, buon lavoro e buona serata. Grazie a voi. In punto di morte, Leonardo da Vinci disse: lascio i libri e altri strumenti e portracti circa l'arte sua et industria de pictori, lo lascio a chi? A Francesco Melzi, che era un suo inseparabile assistente e esecutore testamentario. E questo Francesco Melzi qua ereditò probabilmente 80, 100, 150 libri. Ma oggi che fine hanno fatto questi libri di Leonardo? Sono andati persi Questo Melzi qui si dice che probabilmente li vendette pure, e allora siamo rimasti completamente scoperti su quali libri Leonardo da Vinci leggeva e ha letto, e non si sa. Oltretutto lui in altri suoi scritti ne parla quasi niente. Insomma, la biblioteca di Leonardo non sappiamo com'era ed è andata persa. Carlo Vecce, che insegna letteratura all'Università degli Studi di Napoli l'Orientale ed è anche un filologo, ha scritto questo libro, La biblioteca perduta, e si riferisce appunto a La biblioteca di Leonardo, edizioni Salerno. Abbiamo intervistato e gli abbiamo chiesto come prima cosa, ma riusciamo a capire se Leonardo effettivamente, che era un grande soggetto strano, aveva bisogno di questi testi, ci lavorava molto con questi testi, oppure lui era così geniale che insomma andava da solo, ha inventato tutto? Sì, Leonardo sicuramente riusciva ad andare oltre le cose che leggeva, proprio perché non aveva questo senso di sudditanza intellettuale nei confronti dei grandi autori del passato. Si metteva allo stesso piano con loro, e però nello stesso tempo qualche volta anche con grande umiltà, pronto a recepirne tutti i grandi insegnamenti. Quindi ci sono diversi casi, questo lo notiamo in particolare in molte delle ricerche che Leonardo faceva nel campo dell'anatomia, dove ovviamente lui ha la consapevolezza che in quel momento sta andando oltre, che sta scoprendo dei dettagli, dei particolari del corpo umano che nessuno sembrava aver visto prima o almeno registrato in quella forma, anche perché aveva questa straordinaria capacità, che nessun medico ovviamente aveva, di disegnare e quindi di saper quasi fotografare, rappresentare fedelmente quei muscoli, quei dettagli anatomici che stava scoprendo. Però nello stesso tempo, quando legge dei testi che derivavano dalla scienza araba, dalla medicina araba medievale, lui da lì riprende molte cose anche fondamentali. Quindi in realtà c'è sempre questa interazione tra il sapere dei libri, tra quello che dicono gli antichi e l'esperienza diretta della natura, delle cose. Ma non sappiamo oggi effettivamente quali sono stati quegli 80-100 libri su cui si è formato Leonardo, o si è formato, forse è un'espressione non giusta per quello che abbiamo detto, ma che ha letto, che ha portato con sé. Tra l'altro dal suo libro emerge anche un magnifico giallo, e cioè ci sono chissà dove sparsi, probabilmente anche in Lombardia, questi libri che Leonardo ha avuto, e forse sopra c'è qualche riga sua, ma non siamo ancora riusciti a trovarlo. Ma insomma, sappiamo qual è, di 3 o 4 si sa bene, ma poi? Sì, il titolo è volutamente provocatorio, perché la biblioteca è perduta, no? E purtroppo al momento fotografa anche la situazione reale. Questa è una biblioteca perduta di cui non c'è più niente, tranne un unico libro che materialmente è stato identificato, il Trattato di Francesco di Giorgio Martini, che tra l'altro non è solo di architettura ma è anche un libro di ingegneria, ci sono elementi matematici, geometrici, quindi si avvicina sicuramente alla scienza e alla tecnologia. E tutti gli altri? Questa è la domanda che ci facciamo. E dal momento che Leonardo muore nel XVI secolo e che la dispersione della sua biblioteca comincia ad avvenire solo alla fine del Cinquecento, cioè ormai siamo in età moderna, sembra impossibile che di questi 150-160 volumi non sia al giorno d'oggi sopravvissuto almeno qualche libro, no? Con la speranza che di questi libri che possono essere sopravvissuti ne sia rimasto anche qualcuno che abbia conservato delle sue postille autografe, dei suoi segni di lettura, che per noi sono così preziosi anche per capire qual era il suo modo di leggere quei testi. È quello che in filologia si dice il lettore con la penna in mano, che è proprio il gesto, l'atto del dialogo tra il lettore e il libro in quel momento. Bene, Io spero che questo libro sia solo l'avvio di un progetto di ricerca, di progetti di ricerca di vari studiosi nei vari campi disciplinari, perché qui naturalmente dovrebbero essere anche coinvolte la storia della scienza, la storia delle matematiche, della tecnologia, l'avvio di una serie di progetti di ricerca che nelle biblioteche del mondo, indagando sulle edizioni che è possibile identificare, sulle copie dei libri, eccetera, eccetera, riesca in futuro a illuminare ancora di più questa biblioteca, che secondo me è stata una delle biblioteche fondanti del mondo moderno, della civiltà occidentale, perché insomma siamo di fronte a Leonardo da Vinci, non dimentichiamo. Qui a Moebius, appena possibile, ci interessiamo di segnalare per tutti coloro che lavorano nell'innovazione, innovatori, innovatrici, le start-up o aziende, di segnalare delle opportunità che possono essere interessanti, anche banalmente perché arrivano un po' di soldi, oppure perché ci sono, come dire, delle proposte che hanno a che vedere fortemente con le loro possibilità di sviluppo. Eh sì, perché c'è bisogno di innovazione, c'è bisogno di supportare chi l'innovazione vuole farla. Bisogna capire come farla, questa è decisamente la roba più difficile. E qui con noi questa sera c'è Gabriele Caregnano, benvenuto. Grazie. Fondazione Ergo. Corretto. Avete fatto una chiamata, una call, perché delle aziende, adesso lei ci spiegherà, si facciano vive e potranno ottenere una vostra consulenza proprio per fare un'analisi delle loro potenzialità e quindi capire come svilupparsi al meglio. Certamente questo è particolarmente interessante, sì, non per la Apple o per la Microsoft, ma per le tante piccole che magari hanno. Ecco, cerchiamo di capire proprio a chi si rivolge Vinci un Audit Bella Factory 4.0 della Fondazione Ergo. Il progetto nasce per favorire e coinvolgere le piccole e medie imprese. Tanto è vero che abbiamo messo un limite massimo alla dimensione aziendale di chi può aderire al concorso, che è quella di 250 milioni di fatturato. Guardiamo le piccole e medie imprese perché l'ostacolo iniziale di accedere a tanta conoscenza che arriva anche dal mondo internazionale è di solito esclusiva delle grandi aziende. Certo. Quindi. Allora devono farsi vive presso di voi, ci sarà un indirizzo mail a cui scrivere che è? Esiste un sito che è www.fondazioneergo.it con una sola E, fondazioneergo.it, dove ci sono tutti i riferimenti e il modulo da scaricare. Si va lì e ci sono tutte le informazioni. Si compila il modulo e poi c'è una commissione che giudica, individuerà una decina, quante? Sono sei, perché siamo una piccola organizzazione non profit e vi garantisco che ogni progetto, ogni audit è un impegno molto grosso che coinvolge dai 15 ai 20 giorni uomo. Quindi diamo ancora un'altra informazione di servizio. Le candidature possono essere presentate fino a quando? Abbiamo deciso visto l'elevato interesse delle richieste che stanno arrivando, abbiamo esteso il periodo, la scadenza per poter partecipare dal 30 giugno a fine luglio. Quindi c'è ancora tutto il mese di luglio a disposizione per presentare la propria candidatura. Per iscriversi. Ma come lavora la fondazione? Diciamo che l'audit come presenza nello stabilimento dura al massimo 3 giorni. 3-4 giorni, il quarto giorno è già un giorno di presentazione dei pre-risultati. Poi nel giro di un paio di settimane viene prodotto un report formale di una 40-50 pagine dove vengono analizzati in dettaglio tutti gli aspetti organizzativi della fabbrica che possono essere impattati dalle tecnologie digitali. Quindi siamo nel campo dell'Industry 4.0. Sì. La fondazione è una organizzazione non profit, non fa consulenza, quindi il servizio che noi offriamo è un servizio di lettura, facciamo una fotografia della situazione, produciamo una roadmap di alto livello che spiega, che indica alle aziende quali sono i passi fondamentali da fare nei prossimi 12 mesi. Dopodiché la fondazione esaurisce il proprio compito e termina il proprio lavoro. La fondazione nasce come una piazza neutrale in cui azienda, sindacato e mondo accademico universitario possono lavorare insieme condividendo principi fondamentali di organizzazione del lavoro. Organizzazione del lavoro che va dalla gestione della produttività, dei costi, dei temi legati all'ingegneria industriale, fino a temi che riguardano la qualità del lavoro. Quindi quando diciamo ergonomia, no? Fondazione Ergo viene da ergonomia, noi ci occupiamo di ergonomia del processo, quindi non del prodotto ma del processo. Il modo di lavorare ha un impatto molto molto significativo sulla salute dei lavoratori, e per noi il messaggio chiave è: definiamo una modalità di lavoro sana e allo stesso tempo produttiva, per coniugare due termini che spesso vengono contrapposti, produttività ed ergonomia. Quindi riunite imprese, università e sindacati proprio per dare indicazioni su come affrontare il processo della digitalizzazione. Il processo della digitalizzazione non è un processo puramente tecnologico, anzi direi che è in minima parte un discorso tecnologico. È una questione anche di cultura. È una questione di cultura, di organizzazione ed è un processo di trasformazione. Quindi in ogni processo di trasformazione il primo passo fondamentale è quello di farsi una diagnosi. Qual è il punto di partenza? Qual è il punto che voglio raggiungere in funzione dei miei obiettivi di business e quali sono i gap che devo coprire con delle azioni concrete? Quindi noi diciamo alle aziende, non facciamo il solito elenco di tecnologie disponibili, bellissime, fantastiche, quelle ci sono, ma diciamo quali sono quelle soluzioni tecnologiche che possono veramente impattare il processo di business. Poi c'è questa formula che mi pare vincente di mettere intorno a un tavolo tutti gli attori dell'impresa e cercare di trovare un progetto comune. Questo fa una bella differenza, eh? È un elemento fondamentale per avviare processi di trasformazione fondamentali. Sito www.fondazioneergo.it. E allora Gabriele Caragnano, direttore tecnico della Fondazione Ergo, grazie e buona serata. Grazie a voi, buona serata. Buon lavoro. Cosa facciamo, Simone? Salutiamo. Assolutamente, non saremo mica poco educati. E certo, quindi buona settimana a tutti. E a tutte. Ecco qua.